Per ridurre i costi, per ridurre i tempi, i coniugi che vogliono divorziare si mettono d'accordo, fanno tutto telematicamente e il divorzio è fatto. Regno Unito, il divorzio è fai da te. Lasciarsi online, l'ultima mossa di Cameron per risparmiare soldi pubblici. 24 mattino. Ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, sono momenti, a meno a leggere i giornali, in cui la maggioranza si sfalda, perde pezzi, momenti in cui probabilmente in Parlamento ci si chiede anche: tu che fai? Rimani? Vai? Non lo so, voglio chiederlo all'onorevole Giuliano Cazzola del Popolo della Libertà. Buongiorno onorevole. Buongiorno a lei, gli ascoltatori. Allora, intanto ci dica subito la sua posizione. Lei è un fedelissimo? Lei ha dei dubbi? Lei che fa? Ma guardi, io seguo le indicazioni del governo del partito, anche se la mia posizione è critica rispetto a certe scelte, certe posizioni che sono state prese. Per esempio, io trovo singolare questa ostilità assoluta che è stata manifestata anche al Capo dello Stato nei confronti di un'ipotesi diversa, di un esecutivo diverso, nel caso in cui questo, e io non me lo auguro che sia così, che questo governo non ce la dovesse fare. Cioè lei non preclude un governo tecnico? No, io trovo assurdo che si debba dire o noi o le elezioni in una situazione così difficile, peraltro con una logica da suicidio, perché sono convinto che se andassimo alle elezioni noi, alle elezioni anticipate in questa fase, con queste difficoltà, probabilmente regaleremmo il paese ha una sinistra che non se lo merita, probabilmente farebbe peggio di noi, perché è ancora più in polemica con l'Europa, con la linea che indica l'Europa di voi. Senta, però c'è questa dichiarazione alla quale ci deve una spiegazione. Lei ha detto: io non tradisco, appunto, a parte che questa parola tradimento poi in politica. Comunque, no, ma è vero, ma mi ha messo in bocca l'agenzia. Comunque Berlusconi tratti una resa onorevole o invece di essere schiantato, cioè deve fare un passo indietro Berlusconi? Ma guardi, secondo me adesso la situazione va avanti giorno per giorno, no? Adesso abbiamo avuto questa vicenda con il G20, abbiamo presentato il maxi emendamento e quindi diciamo c'è un altro po' di respiro che questo governo ha preso. Sì, di qualche giorno. Di qualche giorno sembravamo arrivati alla frutta. Io comunque le dico che se è necessario che Berlusconi faccia un passo indietro, bisogna che si rassegni a farlo. Anche se si pensa di ricevere dei torti dalla vita, dalla storia, dalla politica, e c'è anche in parte, dico che si rassegna a farlo, perché un uomo che è entrato nella storia del paese, che ha fatto tante cose come lui, deve cercare di salvaguardare la sua eredità. L'eredità, anche se eredità economica? Salvaguardare la sua eredità e di consegnare il suo partito, la coalizione che ha messo in piedi a un futuro, non deve resistere per fare l'ultima raffica, insomma, ecco. Cioè non deve, cos'è, me la ripeta questa, com'è che non deve non stare? Non dobbiamo ridurci alla logica dell'ultima raffica, in buona sostanza, no? Della bella morte, no? di finire tutti intorno al quadrato con la bandiera in mezzo, insomma. Ma secondo lei il popolo cioè dovrebbe capire che è il momento di fare un passo indietro? No, secondo me dovrebbe capire. Ovviamente noi viviamo la giornata, no? Viviamo la giornata. Adesso il governo ha avuto una boccata d'ossigeno, che può darsi che questa boccata d'ossigeno gli consente di andare avanti, però non si può vivere la giornata attaccati ai voti, a votare alla Camera delle ratifiche di trattati internazionali o di leggi che si votano unanimità. Però Cazzola, se non lo fa questo passo indietro? Ma se non lo fa cosa vuole? Io, come ho detto, non ho l'età, non ho il fisico, non ho la voglia di mettermi a fare cordate, a fare coalizioni, ci logoreremo come una candela e probabilmente andremo a votare in primavera e consegneremo questo paese, questo povero disgraziato paese a Bersani vendole di Pietro. Io comunque nel mio piccolo la scelta l'ho già fatta, nel senso che comunque vanno le cose, io nella 17ª legislatura non ci sarò. Ah, lei non si ricandida? No, comunque vanno. E perché? Cose. È deluso? Perché insomma bisogna fare spazio anche ad altri. perché sono abbastanza deluso di come sono andate le cose. Nel 2008 sembrava che tutto fosse a nostro favore. C'è stato tutta una serie di vicende, una serie di errori che ci hanno portato in questo culto sacco. Senta, un'ultima cosa, ma lei ha parlato prima di resistere in Valtellina, ma cioè, l'immagine è triste, sì. No, ma l'immagine però è truce e riferisce anche al Duce. Sì, sì. Ma perché c'è paragona Berlusconi a Mussolini? No, questo no, però è lo spirito sono dei duri e puri che non mi piace. Ah. Questo spirito di duri e puri che non mi piace. Mm. Insomma, in politica un'ultima trincea non esiste, no? Non esiste la battaglia finale. In politica bisogna sempre avere delle trincee alle spalle, bisogna avere dei piani B, bisogna adattarsi, bisogna essere abbastanza flessibili. Qui non ne vede. Questa logica in buona sostanza dei duri e puri. Che non mi convince. Va bene. Se il governo riesce ad andare avanti, che ci vada, però insomma, che si debba dire o noi o il diluvio, secondo me questa cosa ci ripenseremo quando si presenterà l'occasione. Insomma. Intanto la ringrazio, onorevole Cazzola. Stiamo a vedere. Intanto tra poco ne avremo il ministro Brunetta, chiederemo a lui dopo la pubblicità del metro. La ringrazio per essere stato con noi, onorevole. Il Popolo della Libertà è vicepresidente della commissione lavoro. Insomma, avete visto anche la delusione. Dice Berlusconi deve capire di fare un passo indietro. 24 mattino. Sono le 8:34 minuti, allora eccoci qua. Come detto, è un momento dal punto di vista dell'economia e delle finanze, della politica italiana, sicuramente molto delicato. Allora vogliamo fare una chiacchierata, ne vogliamo parlare con il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Renato Brunetta. Ministro, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a voi. Senta, partiamo dall'Europa. Intanto Draghi ci ha dato una mano, possiamo dire l'italiano Draghi o diciamo l'europeo con il board della BCE che ha tagliato il costo del denaro per darci un impulso alla crescita, una buona cosa? Si potrebbe dire l'americano Draghi, nel senso che si è comportato come si sarebbe comportato un presidente o un governatore della Federal Reserve, cioè con una visione della Banca Centrale Europea di tipo dinamico interventista, con la misura più standard e anche più efficace che si può utilizzare in questi casi, cioè la riduzione di quello che una volta si chiamava tasso di sconto, e questo ha avuto impatti assolutamente positivi sulle borse e quindi sull'economia, sulle aspettative. Un tasso di interesse più basso vuol dire più liquidità, vuol dire più liquidità nell'interbancario, cosa che è fondamentale in questi momenti, vuol dire più possibilità di fare investimenti, meno costo del denaro, meno costo per i mutui, vuol dire aspettative migliori per le famiglie, per le imprese e per l'azione delle banche. Quindi bravo Draghi, l'ho detto ieri, ha fatto una mossa giusta al momento giusto e devo dire è stato il vero protagonista di Cannes, anche se non era a Cannes, sì, durante la sua decisione. Ha preso la scena. Senta, ma oggi il Sole 24 Ore scrive però che questo vale soprattutto per l'Europa più forte, cioè questo effetto benefico, mentre per l'Europa magari più in difficoltà, siccome le banche fanno fatica a trovare soldi, magari i benefici saranno così temporanei ma non a lungo termine. Da economista mi permetto di dissentire con questo commento del Sole 24 Ore. Una riduzione del tasso di sconto fa bene a tutti, dopodiché chi è più forte usa meglio, chi è meno forte lo usa meno, però è fondamentale. La riduzione del tasso di sconto si è visto tra l'altro anche nell'impatto delle borse, mi pare che quella di Milano sia stata la più reattiva, la più efficace, positivamente da questo punto di vista. Senta Ministro, notizia di pochissimo fa da Cannes, l'Italia ha detto sì al monitoraggio da parte di Unione Europea e Fondo Monetario dei progressi su pensioni, lavoro, riforme strutturali. Dice l'Unione Europea dobbiamo essere certi che ci sia credibilità con gli obiettivi dell'Italia. Le faccio una domanda brutale, è un commissariamento? Ma guardi, io sorrido quando sento questa storia dei commissariamenti, se ne era parlato ad agosto con la BCE, ricordo che la BCE è un'istituzione europea partecipata dall'Italia, come ben sappiamo, e quindi come si fa ad essere commissariati da una propria istituzione? Quando abbiamo scritto la lettera all'Europa si è detto l'Europa ha commissariato l'Italia, ricordo che l'Europa è un'istituzione nostra, italiana. italiana. L'Italia è l'Europa, l'Europa è l'Italia. Come si fa a essere commissariati da un'istituzione di cui si è azionisti rilevanti? E lo stesso Fondo Monetario Internazionale, lo dice la parola stessa, è un'istituzione internazionale e quindi a cui l'Italia partecipa con le proprie risorse, con le proprie dirigenti, avendone accettato le regole. Come si fa a essere commissariati da qualcuno che è assolutamente partecipato dalla stessa Italia? Vede, quando si prendono degli impegni e si è in buona fede in questi impegni, e se qualcuno ti dice mi fai controllare che mantieni questi impegni, io sono la persona più contenta a questo punto, se si è in buona fede. L'Italia è assolutamente in buona fede, il presidente Berlusconi ha davanti a sé un cronoprogramma di implementazione, di realizzazione della lettera con l'Unione Europea, sì, in cui ci sono tutti gli oggetti, tutte le scadenze e tutti i passi da fare. C'era davanti un tabellone, è un tabellone che viene controllato tutti i giorni, tutte le mattine, viene controllato a Palazzo Chigi, le do questa notizia. C'è proprio un tabellone. Anche qualcuno viene associato a guardare questo tabellone, a guardare l'implementazione, come abbiamo fatto ieri, l'altro giorno con il Consiglio dei Ministri, quando abbiamo approvato il maxi emendamento alla legge di stabilità, ben venga, ci darà una mano, come dire, a comunicare all'esterno questa nostra volontà. A proposito di questo maxi emendamento, Ministro, però qua poco fa anche c'era l'onorevole Cazzola, nostro ospite, ha detto Berlusconi deve capire che deve fare un passo indietro, cioè l'idea è che si sta sfaldando nei numeri, li ha visti anche lei, quelli che se ne vanno, che dicono sono dubbiosi, cioè non pare che non ci siano più i numeri, o c'è il rischio che non ci siano i numeri per approvare questo maxiemendamento? Ma io sento tanta fibrillazione e poca attenzione ai fatti concreti. I fatti concreti sono che l'Italia ha preso degli impegni che l'Europa ha considerato assolutamente positivi, il tutto ribadito ieri ribadito da Sarkozy e dagli altri leader del G20. L'Europa ha preso l'Italia ha preso questi impegni, quindi questo è un fatto positivo. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il maxi emendamento che verrà approvato la settimana entrante nelle commissioni e poi in aula. Se ci sono i numeri. Al Senato. Ma vede, in democrazia la verifica dei numeri è tutti i giorni. Non è ci sono i numeri o non ci sono. Se non ci sono i numeri si va a casa, si va alle elezioni. Se ci sono i numeri si governa. Io non capisco questa storia del passo indietro, passo in avanti. Mi sembra una mazurka un po' anomala, un po' banale. Il governo governa, il Parlamento dà il proprio consenso se c'è la maggioranza, se non c'è la maggioranza si chiede nuovamente il proprio parere. Si va a votare. Il governo tecnico sovrano, no. Molto semplicemente. Questa cosa del governo tecnico, per esempio, non è contemplata da voi. Io lo considero un golpe, vede, il governo tecnico. Non ha, perché forse io non sono un tecnico. Io faccio il professore di mestiere, faccio l'economista di mestiere. Però mi sono fatto eleggere prima. Faccio parte di un partito, faccio parte di una coalizione che ha presentato un proprio programma e che ha acquisito la maggioranza. Chiunque vuole può fare altrettanto. Perché dare, mi scusi, a un quivis de popolo che non ha passato questo processo democratico il ruolo di governare il paese? Ma perché si dice magari dovesse cadere il governo, un vuoto di 3 mesi, il tempo per fare le elezioni, questo momento sui mercati magari non è il massimo da... Ma facciamo non cadere il governo se si è... Vabbè, questo politicamente sì. In ogni caso, se mai cadesse il governo uscente per gli affari correnti governa fino alle elezioni. Questa è la regola della democrazia. Tanta orgasmo per il governo tecnico sinceramente non lo capisco, a meno che non ci siano i cosiddetti poteri forti che soffiano su questa scelta, e i poteri forti, come si sa, non sono democratici, hanno interessi non sempre nobili, vogliono fare affari i poteri forti, tanto per essere chiari, e ai poteri forti sta un po' stretta la democrazia. Ci sono i numeri, si va avanti, non ci sono i numeri, si va a votare. La cosa più semplice di questi mondo. Deputati che se ne vanno, come li definirebbe? Traditori, non traditori, transfughi, venduti? Non ho dato giudizi quando la transumanza avveniva da sinistra verso di noi, non do giudizi nel ragionamento e nella transumanza opposta. Transumanza dire, però, non è un bel termine, ogni... ministro. Transumanza. Ma no, è bella perché le belle bestie. Ma io ricordo la poesia di D'Annunzio: a settembre andiamo, è tempo di migrare, ora in terra d'Abruzzo i miei pastori lasciano gli stazzi e vanno verso il mare. Ecco, per quello. Passiamo un po' a visioni poetiche, non è settembre, è novembre, vede, ognuno è libero nella sua coscienza, tutte queste persone io le conosco, sono persone serie, e quello che mi secca e che mi fa male è che quando la transumanza viene in un senso, viene demonizzata, quando viene nel senso opposto si fanno gli applausi. Va ecco, bene. Questo mi fa schifo. Ministro, mi dà un giudizio secco su queste proposte che circolano da giorni? Una bella patrimoniale è una stupidaggine. Il condono? Il condono bisogna vedere come lo si fa, anche perché c'è molta ipocrisia. Tutti gli italiani lo vogliono, le anime belle si stracciano le vesti. Un ritorno all'ICI sulla prima casa? L'abbiamo abolita e io l'ho votata, quindi non serve. E il prelievo forzoso sui conti correnti, il modello Amato 92? Che circola? Una follia, lasciamo questo merito, tra virgolette, a Giuliano Amato. Senta, ora bisogna parlare un attimo dei rapporti con Tremonti. Non mi dica che va tutto bene, perché non ci credo. Se mi dice va tutto bene, io non ci credo e quindi gliela richiedo finché non mi dice che c'è qualcosa che non va. Ma vede, Tremonti ha una sua visione della politica economica. Il Presidente del Consiglio, che è l'unico titolare anche per legge dell'indirizzo dell'azione di governo, a volte ha orientamenti diversi. Io credo che questa differenza non sia un bene. Tutto qua. Perché lei parla di differenze, ma pare che siano tu non ti volevo ministro, io non ti volevo premier. Cioè, ma vede, lascio ai giornalisti il loro mestiere, in fondo i giornalisti fanno un mestiere bellissimo, a volte fanno anche delle cose meno buone, raccontano retroscene che non esistono, raccontano banalità, raccontano gossip, stupidaggini. Io preferisco i giornalisti che raccontano le cose buone, le cose vere, le notizie vere. Beh. Allora, il problema è che il titolare della linea politica d'azione del governo, anche sulla politica economica, è il Presidente del Consiglio. Sarà, ma io sono un inguaribile persona legata alla Costituzione e alla legge. Ma la differenza vuol dire che uno dei due sono incompatibili? Perché Ferrara dice liberiamoci al più presto di questo cinico Tremonti. Noi da maggio del 2008 abbiamo fatto tantissime cose, e tantissime cose sono in temi di politica economica, manovre per 265 miliardi di euro accumulati fino al 2014, raggiungeremo il pareggio di bilancio nel 2013, andremo in avanzo primario nel 2012, abbiamo fatto tantissime riforme e tutto questo l'abbiamo fatto insieme, l'abbiamo fatto Presidente del Consiglio che dava l'impulso e tutti gli altri ministri, a partire dal Ministro Tremonti, a realizzare tutto questo. In talune fasi c'è stata evidentemente una differenza di orientamento, più sviluppista, tanto facciamolo capire, quella del Presidente Berlusconi, più rigorista, più conservatrice, quella del Ministro Tremonti. Io sto con il Presidente del Consiglio. Lei sta col Presidente del Consiglio. Non potrebbe che essere diversamente, è come dire che un giornalista non sta con la linea di orientamento del suo quindi, direttore. Sta dicendo che Tremonti è fuori dalla linea di governo del suo direttore. Puntini. Quindi lei sta dicendo che Tremonti è fuori dalla linea di governo, insomma. Le sto dicendo che dal 2008 ad oggi sono state fatte straordinarie cose tutti insieme. In alcuni passaggi anche recenti, il ministro Tremonti ha avuto una linea diversa da quella del Presidente del Consiglio. Perfetto. Dopodiché il tutto si è anche spesse volte ricomposto, mi pare che anche recentemente con il maxi emendamento della legge di stabilità c'è stata una convergenza e una ricomposizione. Ecco, io ripeto, io sto con la linea del Presidente del Consiglio. È chiarissimo. Un'ultima domanda è la questione delle... Non sente contestazioni alla casta? La casta vuol dire i politici che ritornano. Iacchetti, per esempio, l'ha mandata affa. Ma vede, io ho grande simpatia per Iacchetti quando fa il comico. Quando però i comici vogliono fare gli editorialisti, avrebbero almeno il dovere di informarsi. in quel suo blog, Iachetti, in 5 righe ha detto 6 cose sbagliate. Allora, un comico può dire quello che vuole purché dica la verità. Era il ruolo dei giullari nei confronti dei re. Avevano questa libertà di dire che il re era nudo purché dicessero la verità, però. Ma se un comico come dire, si prende, prende in giro il potere e lo fa dicendo cose sbagliate, beh, allora è poco credibile, è un ibrido tra un editorialista e un giullare. Che senso ha tutto questo? A ognuno faccia il proprio mestiere. Se il cittadino Iachetti si vuole indignare, un po' in ritardo per la verità, ma va bene lo stesso, nei confronti dei politici, dei giornali, del giornale della Confindustria, del giornale di Caltagirone, del giornale di Berlusconi, lo faccia. Lo faccia però con informazioni precise e dicendo cose corrette. Io la ringrazio, Ministro, per essere stato con noi. Staremo a vedere la tenuta allora del governo la prossima settimana. La settimana pare decisiva, insomma. Reddito. A voi. Grazie. Buon lavoro. Ministro Renato Brunetta. Allora, eccoci nell'ultima parte di 24 Mattino. Vogliamo capire, si parla tanto di Grecia, ma vogliamo capire cosa sta succedendo ad Atene? Voglio salutare Vicky Marcà, che è una giornalista greca, freelance, in Italia da tanti anni. Buongiorno e benvenuta, Vicky, eccoci qua. Buongiorno. Allora, intanto questa storia del referendum che non si terrà più, cos'è stato da parte del premier Papandreou? Una pazzia? L'hanno convinto a recedere? Ma vorremmo tanto saperlo anche noi. Quelli più buoni parlano di un bluff ricattatorio verso l'Europa, verso i greci, verso il suo partito, verso tutti e nessuno. Quelli meno buoni parlano di un atto di autolesionismo o di un atto di lavarsi le mani. Io all'ultimo momento chiedo il consenso popolare così che non ho colpa di niente, ma non è così. Non può essere così un anno e mezzo dopo. Cioè, questo era un atto che sì, avrebbe potuto avere un senso un anno e mezzo fa, quando si è deciso di chiedere l'aiuto con il conto salatissimo che stanno pagando in questo momento una parte dei greci, perché secondo me almeno tutto il problema è là. E pagano i soliti, come si suol dire con questo slogan. È giusto che si paga le colpe, è giusto che pareggiamo i conti, ma non è giusto che pagano i soliti, che poi sono anche quelli più deboli, sono i pensionati, sono gli stipendiati, sono gli stipendi bassi. La questione è, ma i greci, indipendentemente dal referendum che ora non si terrà, vogliono restare in Europa, vogliono restare nell'euro, oppure hanno nostalgia della dracma e di quello che c'era prima dell'Europa? Ma sai, è una domanda un po' artificiosa questa, perché in realtà non c'è scelta, ormai è tutto in euro, ormai sono 10 anni di euro e per di più anche con la dracma la soluzione esisteva perché c'erano le sottovalutazioni, è la stessa storia che c'è in Italia, non è che avevamo anche prima una moneta stabile, forte, con la quale potevamo fare affari e avere una tranquillità. L'unico vantaggio, se vantaggio possiamo chiamarlo, è che quando le cose non andavano più si faceva una bella sottovalutazione e allora si rafforzavano un minimo le esportazioni. Parliamo però della Grecia, non parliamo dell'Italia, un paese che ha comunque pochissime esportazioni. Il nostro prodotto nazionale più ricco è il sole e questo non lo esportiamo. Ma tra l'altro si dice, è la domanda spesso che si fa, perché salvare uno Stato da parte dell'Unione Europea? Quali sono la partita in gioco del salvare o no la Grecia? Infatti questo è la domanda, perché si è voluta o no questa Europa unita politica che non si è mai fatta, perché secondo me tutte queste domande e tutto questo caos, perché di caos si tratta, non si sarebbe creato se se fosse preesistita un'Europa politica prima di questa economica, o almeno se avessero avuto una vita parallela. Ora, non per tirare le solite conclusioni del paese povero ma disgraziato, stiamo a pagare noi greci, per esempio, di armamenti una cifra sproporzionata da anni e anni. Perché? Perché siamo in una continua lite con i vicini, non tanto con i quali non abbiamo un buon vicinato, turchi. Sì. In un'Europa politica dove tu ti senti tranquillo che il tuo vicino italiano, francese, tedesco, dice, che senso non ha tutto questo? Solo di venderti i suoi cacciamine o i suoi aerei, senti anche che ti appoggia politicamente, che hai una difesa comune, che hai anche una linea politica comune. Tutte queste cose non sono più valide, non ma questo non senso. Si è mai fatto. Non c'è una strategia comune, non c'è una difesa comune, non c'è una politica comune, e poi ci sono anche i conti sballati e truccati, cosa la quale si sapeva. E questo peraltro però vedremo come finirà, perché secondo molti economisti e analisi economiche c'è una probabilità, qualcuno dice del 40%, che entro il 2012 uno dei paesi esca dall'Unione Europea, e da questi uno dei più, insomma, dei più gettonati per le scommesse, so che è brutale, è proprio Atene e la Grecia. Io però ringrazio Vicky Markaki per essere stata con noi, ripeto, giornalista greca, freelance in Italia da tanti anni, ci ha aiutato a capire che cosa succede lì ad Atene, dove se ne parla, ma poi che succede. Allora, noi finiamo qui con i ringraziamenti a Elisabetta Fusconi, Alessandro Longoni e Viola Bottoni in redazione. È venerdì e quindi ci prendiamo un bel weekend tranquillo. Il nostro alpino Peter Bescapè se ne va con la sua penna nera, ovviamente, per Monti. Poi oggi è il 4 novembre, festa delle Forze Armate. E allora la linea passa a Oscar Giannino, rimane sull'attualità politica, e noi ci ritroviamo lunedì alle 7:20. Scriveteci 24mattino @radio24.it e andate sulla nostra pagina Facebook 24mattino. A lunedì.